Gigi D'Agostino. Buongiorno, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ci ritroviamo tutti i giorni qui alle 18 per cominciare la nostra camminata quotidiana. Oggi è già. State ascoltando Il cammino di Gigi D'Agostino. Mica una cosa qualsiasi. Le cose piccole hanno l'aria di un nulla, ma danno la pace. Sono come i fiori nei campi verdi. Li crediamo senza profumo, ma tutti insieme imbalsamano l'aria. Giorgio Bernanson. Il cammino di di Gigi D'Agostino. Una fragranza per l'ambiente. La nostra costanza attraversa anche i sassi. Gigi D'Agostino non ferma i suoi passi. Dai una mixata, vai G. Questo sabato 27 gennaio 2007 Gigi D'Agostino suona a Roma. Suona a Roma. Discoteca Palladium, Trevignano Romano. Su le mani. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M. 2. O. Bella regà, sta a suonar maestro Gigi D'Agostino. Sta melodia infinita che racconta la vita. Se non vuoi giorni grigi, scrivi a Gigi. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Stiamo viaggiando nel mondo che non c'è. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. E se si chiama cammino, un motivo c'è. Segue delle strade, propone dei percorsi, a tempo di musica, di musica.

scegliere quale paesaggio guardare, quale orizzonte raggiungere. La scelta sta alla nostra mente. La scelta sta alla nostra mente. Sta a come ci sentiamo in quel preciso momento. Quando stiamo ascoltando. Sta al nostro stato d'animo. La scelta sta anche nell'umore. Una canzone può rappresentare uno stato d'animo. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Due cose che non possono essere attaccate frontalmente: l'ignoranza e la ristrettezza mentale. Le si può soltanto scuotere con un semplice sviluppo delle qualità opposte. Non tollerano la discussione. John Acton. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica ben detta. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. musical, mental, musical, mental, Gigi D'Agostino, musical, mental, un DJ con le palle. Mixa Gigi D'Agostino. Sabato, Gigi D'Agostino suona a Roma, discoteca Palladium, Trevignano Romano, sulle mani. Sono Gigi D'Agostino. Tamarro bizzarro. Dai, Gigi D'Agostino. Movimenti incoerenti. Sul serio qualcosa, trova una strada, gli altri una scusa. Scusa. Proverbio africano. Il cammino di Gigi D'Agostino, il tuo antidepresso. Rimani con me. Ascolto la musica del mio DJ su M2O ogni pomeriggio alle 6. Thank you. credo che le cose più grandi della vita succedano nei tuoi sogni. Insegnerei ai nostri bambini a imparare a sognare piuttosto che a ricordare. Perché ciò che è importante non è quello che è successo, ma quello che potrebbe succedere. E per questo motivo devi essere pronto a sviluppare la tua immaginazione e permetterti di avere un sogno di giorno e un sogno di notte. Simone Perez. Vorrei fare una canzone da suonare con la chitarra per le strade e le persone. Vorrei fare una canzone per donare a tutto il mondo un poco di immaginazione. Vorrei fare una canzone che trasmetta un ideale se le cose vanno male. Vorrei fare una canzone anche solo per cantare. Viaggio incontaminato, un sentiero innamorato, la semplicità di un bambino, il cammino di Gigi D'Agostino. L'amore è il trionfo dell'immaginazione sull'intelligenza. Henry Louis Mencken. Talk of the town. tappi il shampoo e andiamo, dai. Ora vado a pinciare un brano muy incassato che te scassa la casa. Che se, con la casa che. Con la casa che te scassa. Sono Gigi D'Agostino e ho qualche piccolo problema di equilibrio al suolo. È mai nociuto stare zitto. Catone. Nociuto, nociuto. Ma si dice G? Eh? Nociuto. Secondo me sì. D'Agostino è a vostra disposizione. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Attraverso questo cammino potete lanciare il vostro pensierino. Intorno a me, mentre scrivo

La parola è un bel dono, ma non rende la ricchezza del nostro animo. È un riflesso molto blando del sentimento. E sta la sensazione come un sole dipinto sta il sole naturale. Carlo Bini. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica è bella. D'Agostino, una musica infinita che racconta la vita. Rimango sulla strada che non so dove, però lei c'è, mi porta su, non torno più. Thank you. piango sulla strada che non so dove, però lei c'è. Perché se non torno più. Non torno più.